Il punto di Stefano Folli. È opinione diffusa che lo sciopero della RAI, o meglio la resistenza corporativa contro i tagli previsti dal governo, serva solo a rafforzare il profilo riformista del premier Renzi nell'opinione pubblica. Ed è assolutamente vero. La RAI rischia di diventare un potente strumento di propaganda, diciamo così, indiretta dell'azione di governo. Sarebbe opportuno dunque che dall'interno dell'ente pubblico si facessero sentire voci diverse, se ce ne sono, voci che accettano la sfida delle riforme e non si arroccano in quella che appare una mera difesa di privilegi costosi. D'altra parte, sarebbe bene che Palazzo Chigi facesse conoscere al più presto, e non solo in base a indiscrezioni, come intende ristrutturare la RAI e metterla in condizione di offrire un servizio più moderno ed efficiente. Riformare, lo sappiamo, non è solo tagliare i costi, ma anche ricostruire immaginando il futuro. E la RAI è un pezzo talmente importante della storia d'Italia che non si può nemmeno pensare di lasciarla nella palude.